assente, immerso nei pensieri, assente, immerso nei pensieri, assente in un altro livello di coscienza. Che ti ha detto l'istinto? Che ti ha detto il tuo sentimento? Ti sei svegliato a mezzanotte? Ti sei svegliato a metà di sonno? Il viaggio interno ti ha mostrato l'immagine, il viaggio interno ti ha dato riposo, ti ha dato la guida, ti ha dato la via. Assente, immerso nel pensiero, coscienza e istinto insieme ti offrono vie, alcune nella loro forma e altri nella stessa formazione. Assente in un altro livello di coscienza. Hai visto il passato, hai visto il presente, hai visto il futuro. La porta era aperta, l'hai visto da lontano, ma tu sei stato a passi da gigante. Che ti dice l'istinto? Che ti dice il tuo sentimento? Trova il vero percorso e continua. Abbiamo camminato per migliaia e migliaia che dovrebbero percorrere. Porte e porte, su, giù e a lati. Assente, immerso nel pensiero, assente in un altro livello di coscienza. Che ti dice l'istinto? Che ti dice il tuo sentimento? Il cavaliere.